Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sta per cominciare un altro viaggio insieme a WhatsApp. WhatsApp. Nome? Chantal. Età? 25 anni. Da dove sei partita? Milano. Dove sei arrivata? Bruxelles, Belgio. WhatsApp. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ci fa piacere aprire la nostra puntata con le parole di WhatsApp, programma di mvradio.it che va alla caccia di giovani italiani nel mondo. Continuiamo a pensare giovane e parliamo di calcio. All'estero si individuano i talenti, poi li si recluta se si pensa che ci sia una prospettiva. Ritengo che all'estero si punti di più sui giovani, l'Italia farebbe meglio a puntare sui propri. La frase della settimana, ricordo, del calciomercato estivo è del centrocampista Marco Verratti, 19 anni, ora a Parigi. Lo sport simbolo dell'Italia è lo specchio amaro di un paese che da decenni regala talenti all'estero, talenti anche morali. Qualcuno ci può spiegare perché Simone Farina, 30 anni, sia dovuto andare all'Aston Villa per trovare un'opportunità di lavoro dopo aver avuto il coraggio di denunciare una combine all'italiana? Siamo un paese allergico persino agli onesti? Dal calcio ci trasferiamo al mondo della medicina, che fa da sfondo alla puntata odierna. Il problema è sempre lo stesso del sistema. Il sistema ormai è un sistema chiuso, un circolo vizioso che non permette di rientrare né permette di uscire poi chi ne fa già parte. Paolo Fabiano, 38 anni, è un chirurgo a lavoro in Spagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Quasi un giovane italiano su due, secondo l'ultima ricerca Istud, intende lavorare all'estero per realizzare il proprio futuro professionale. In testa alle preferenze l'Europa, seguita dagli Stati Uniti. La crisi ha fatto esplodere la voglia di immigrazione tra laureandi e neolaureati. Rispetto a un anno fa la tendenza a emigrare è salita di oltre 8 punti. Incide pure la frequenza di un programma Erasmus. 4 giovani su 10 vi hanno aderito e tra gli ex Erasmus la propensione a lasciare l'Italia sale al 62%. Fuga dei cervelli, addio. La geografia della ricerca sta vivendo un cambiamento profondo a livello globale con il passaggio dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei cervelli. Questa è l'evoluzione cui la rivista Nature ha recentemente dedicato la copertina. Ma la circolazione dei cervelli appare un concetto che fatica a penetrare il mondo della ricerca italiano. Ben 23 ricercatori rientrati 2 anni fa nel bel paese dopo aver vinto un bando intitolato al premio Nobel Rita Levi Montalcini temono ora per il proprio futuro e rischiano di dover rifare le valigie verso l'estero. La denuncia arriva da una di loro, Silvia Ferrara. Il problema è che noi siamo in attesa del rinnovo del nostro contratto. Per contratto si stipulava che noi avessimo la possibilità di fare didattica e ricerca in Italia per 3 anni, rinnovabile per altri 3 anni. Quindi il nostro contratto scadrà tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014. Abbiamo pensato di mobilitarci per avere ragguagli e aggiornamenti sulla possibilità di questo rinnovo, ma il Ministero dell'Istruzione ha molto nicchiato e ha tergiversato e ci sta lasciando in una situazione di limbo accademico, per cui noi non sappiamo che fine faremo. Sono stati investiti 6 milioni di euro per questo programma sotto l'egida del rientro dei cervelli, quindi con una prospettiva di possibile stabilizzazione futura nell'assetto accademico italiano, e in realtà noi ci troviamo in un'aporia giuridica. Da dove siete rientrati? Da tutto il mondo. Io torno dall'Inghilterra, dove ho passato 16 anni. Non vi resterà che tornare all'estero, immagino? Non necessariamente, noi stiamo lottando perché ciò non avvenga. Quanto costa avere una popolazione giovanile net che non studia né lavora? Lo ha calcolato Eurofound. Costa l'1,2% del PIL europeo e il 2% di quello italiano, con una perdita per il bel paese di oltre 32 miliardi, la più alta. Per percentuale di net sul totale dei giovani ci superano, pensate, solo Bulgaria e Grecia. Se includessimo anche gli under 35, i net italiani sarebbero oltre 3 milioni. Per Massimiliano Mascherini, direttore delle ricerche a Eurofound, la bassa istruzione media è alla base dell'aumento dei net italiani. Secondo il nostro studio, all'Italia avere più di 2 milioni di NEET costa circa 32 miliardi di euro l'anno, almeno questo è il dato del 2011, è un dato esorbitante, anche perché diciamo che la popolazione NEET italiana si contraddistingue rispetto a quella di molti altri paesi europei, perché sembra esprimere il problema strutturale dell'accesso al mercato del lavoro dei giovani, in quanto il NEET italiano è più probabilmente inattivo, senza esperienza lavorativa, con una grossa percentuale di lavoratori scoraggiati. E secondo l'Istat, tra i net italiani sono più numerose le donne, in misura maggiore al sud. Oggi vi segnaliamo l'interessante iniziativa della Camera di Commercio italiana in Germania, che punta a mettere in contatto aziende tedesche e laureati italiani. 2 le fasi, la raccolta dei curricula, poi l'incontro candidati imprese tedesche a Milano il 9 novembre. Candidature a ygvillirilli@itcam.org. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè Io gli dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno. No, non l'ho mai detto, guardi, non l'ho mai detto. I giovani italiani oggi sono disposti a prendere qualunque lavoro. E no, ministro Elsa Fornero, proprio non ci siamo. Retromarce tardive a parte, l'aver definito chiusi, schizzinosi i giovani italiani in questo momento di crisi è davvero troppo. Soprattutto se, come raccontiamo ogni settimana, giovani talenti, migliaia di loro hanno il coraggio di cercare all'estero quelle opportunità che l'Italia non vuole e sempre di più non può offrire loro. La storia di questa settimana di giovani talenti ci riporta in Spagna. Lontano dalle capitali storiche della giovane emigrazione italiana, Madrid e Barcellona, ci tuffiamo nel profondo sud iberico, destinazione Andalusia. Nome: Paolo. Cognome: Fabiano. Età: 38. Città di origine: Roma. Studi: medicina e chirurgia, specializzazione in chirurgia generale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2002. Per andare dove? In Spagna. Perché? Hanno una formazione migliore. Quale lavoro svolge attualmente? Sono chirurgo di ruolo e responsabilità dell'unità di chirurgia laparoscopica. Dove? A Huerta Olovera, in provincia di Almeria. Tornerai? Ci proverò, ma non so se resterò. Corren fuerte viento de tormenta, como no vivo del aire, me estoy dando rienda suelta, no se lo cuentes a nadie. E stop a Vientos de Tormenta ci portano fino in Andalusia. In Italia a 38 anni sono visto più che altro come una persona scomoda che ha imparato cose che altri magari con 15 anni in più non sono in grado di fare, affermi con molta schiettezza Paolo, rivendicando uno status preciso, quello di migliaia di giovani che come te hanno studiato e si sono formati all'estero. Fate paura a chi è rimasto in Italia senza essersi mai confrontato con altri mondi, a chi basa la propria carriera su logiche aliene alla meritocrazia. È per questo che siete scomodi. Beh sì, comunque quello d'Italia è un sistema chiuso dove tu immagina un ragazzo di 38 anni che insegna o comunque che torna e deve insegnare a persone di magari 50-55, insomma non è una situazione molto facile, ecco. Medicina è la strada che intraprendi all'Università di Roma, una strada che presuppone una forte passione. Cosa ti ha spinto verso il camice bianco? Ma la mia fortuna è stata che era l'unica cosa che mi piaceva. E come ricordi gli anni di università? I nostri atenei nel settore medico forniscono una buona preparazione teorica e pratica? Per la preparazione teorica sicuramente in Italia è ottima, pratica probabilmente un po' meno, ecco. E infatti dopo la laurea cominci la scuola di specializzazione. Qui arriva la prima svolta, frutto di una riflessione amara. Nel primo anno da specializzando mi resi conto che se fossi rimasto in Italia non avrei imparato a operare, ma sarei stato uno dei tanti chirurghi senza bisturi. Non è un po' paradossale? Sì, è paradossale, però è vero. Nel senso che gli specializzandi, perlomeno chi fa chirurgia, operano molto poco, a volte niente, quindi questa è una realtà attualissima, diciamo. Qui si rivela fondamentale l'appoggio del tuo primario, grazie al quale prendi contatto con la Spagna. Trovi un piccolo ospedale oltre i Pirenei. Dove? Il paese si chiama Navalmoral de la Mata e sta in Estremadura. Sempre nel sud della Spagna. E nel sud della Spagna, sta un'ora e mezza da Madrid. In questo piccolo ospedale il primario e gli altri chirurghi si sono sentiti in dovere e onorati di insegnarmi, affermi con riconoscenza. In Italia invece qual è il rapporto tra professori e allievi? Una gentile concessione? Diciamo che lo specializzando è una manodopera a basso costo in generale. E il sistema è un sistema per cui il primario opera tutto e lo specializzando manda avanti il resto del reparto. Per 6 anni, ogni anno, la tua vita vive su sacrifici costanti, quasi un semestre di studi all'estero, il resto in Italia, per una formazione che nella penisola parole tue non avresti avuto. Siamo un mondo universitario chiuso e impermeabile? Siamo sicuramente un mondo abbastanza chiuso. La cosa assurda è che siamo pieni comunque di realtà interessanti, ma probabilmente siamo incapaci di trasmetterle. Ecco. Dopo un decennio si pone il problema del lavoro, ma anche di continuare a imparare. Tanta fatica, tanti sforzi per svettare sopra la media andando a studiare all'estero e poi il tuo paese non ha saputo offrirti nulla. Come trova lavoro un chirurgo in Italia? Servono i contatti giusti? Beh, i contatti servono ovunque. In Italia diciamo che sono fondamentali, ecco. Per trovare lavoro più delle volte ci si mette sul sito della Gazzetta, si cercano i concorsi. Però insomma, ecco, concorsi ce ne sono sempre molto pochi e soprattutto al nord e non al centro. Quindi la via ufficiale non c'è, di fatto la via informale è quella del networking, ma un po' all'italiana, diciamo. Sì, esatto. Ovviamente non ti fermi, prosegui con un dottorato di ricerca in Francia per una fellowship in chirurgia laparoscopica. Perché questa scelta? Perché comunque per continuare a formarsi bisogna muoversi, questo è un dato di fatto. L'estero offre tantissime cose, c'è più la formazione in Francia è molto buona, c'è molta concorrenza tra privato e pubblico. Dalla Francia poi ti sposti in Lussemburgo, prima con un contratto di medico in formazione e poi come chirurgo. Hai l'onore di lavorare con il professor Juan Santiago Azagra, tra i chirurghi più brillanti al mondo. La definisci come una delle esperienze che segna profondamente il tuo cammino. Come si fa carriera in chirurgia all'estero? Quanto conta il merito? Il merito conta, tant'è vero che più delle volte, perlomeno all'inizio, il contratto si fa su colloquio, nel senso che c'è un colloquio, se piace il tuo curriculum vieni preso, vieni messo alla prova, se poi continui, insomma questo è stato un po' il mio iter, no? In questo periodo si verifica una prima importante cesura, uno spartiacque tra il prima e il dopo. Provi, come molti protagonisti delle nostre puntate, a tornare in Italia, a Roma precisamente. Trovo personalmente agghiaccianti però le tue parole, quando scrivi a giovanitalenti@radio24.it, mi sono subito reso conto di essere di troppo, ho tentato di trovare lavoro in una clinica privata ma con pochi risultati. Chi o cosa ti ha sbarrato la strada? Il problema è sempre lo stesso del sistema, il sistema ormai è un sistema chiuso, un circolo vizioso che non permette di rientrare né permette di uscire poi chi ne fa già parte, quindi è il sistema che è malato fondamentalmente. Ma non è assurda un'ostracizzazione che alla fine evita il ritorno in Italia, il rientro in Italia agli outsider, anche migliori, a chi ha avuto una formazione professionale, alla fine ci perde il paese? Certo, ci perde il paese perché comunque perde i cervelli, come si dice. Piano piano si va verso un impoverimento di parte del mio campo, ma di qualsiasi altro campo, se fosse dove i sistemi sono più o meno tutti gli stessi, insomma. Quanti giovani chirurghi italiani hai incontrato o incontri all'estero? Ce ne sono tanti che provano a tornare, provano, ripartono, o hanno fortuna e riescono a restare, soprattutto al nord diciamo ci sono ancora possibilità. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Così torni in Spagna, sud andaluso. Come ci arrivi e come ti trovi ora? Ci sono arrivato per un amico conosciuto in Francia, quindi girare premia. Mi trovo bene, a parte la crisi che è arrivata anche qui, forse anche più pesantemente in Italia, ma comunque dal punto di vista professionale non mi posso lamentare. In Spagna ti sei ulteriormente specializzato in chirurgia laparoscopica, il tuo primario, parole tue, ti vede come una risorsa. Ci spieghi concretamente quale sia la differenza tra sottoposto all'italiana e risorsa all'estero? All'estero il potenziale di chiunque se ne ha viene sfruttato, il mio viene sfruttato pienamente e permette al mio primario di dedicarsi ad altre cose magari. E in Italia semplicemente o sei fortunato, estremamente fortunato, oppure ti metti in fila e aspetti. Però la tua storia ha un bel risvolto, positivo, perché tu in Italia, in provincia di Roma, alla fine sei tornato. Come esattamente, per fare cosa? Ma io mi sono mosso molto durante la specializzazione anche quando stavo in Italia. E lì ho frequentato gli ospedali, tra cui l'ospedale di Tivoli, che è il paese che stava una mezz'ora da Roma, e dove sono rimasto in contatto con il primario e con lui abbiamo creato una convenzione, una collaborazione con il mio ospedale qui in Spagna e il suo. Io vado una volta al mese, faccio 3 sedute operatorie al mese dove insegno determinate tecniche ai chirurghi dell'equipe di questo ospedale. Questo è un piccolo ma positivo segnale che ci dà veramente speranza. Paolo, il ministro della Sanità Balduzzi ha recentemente dichiarato: occorre aprire maggiormente alle giovani generazioni. Il 60% dei medici italiani ha tra i 50 e i 59 anni. È la gerontocrazia, ti chiedo, uno dei problemi che più affliggono la vostra categoria? Sicuramente è uno dei problemi principali, però paradossalmente il vecchio diciamo diventa necessario, nel senso che se il vecchio non trasmette al giovane, il giovane non è capace di, a chi ci appoggiamo? Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Dall'estero con molta rabbia, devo dire, perché io sono sempre stato convinto che gli italiani e l'Italia ha un potenziale gigantesco che però non si riesce assolutamente a sfruttare. Una proposta concreta, credo che bisognerebbe smantellare il monopolio dell'università, nel senso creare concorrenza per quanto riguarda la formazione e poi da lì creare efficienza, merito e tutto quello che è necessario. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Paolo Fabiano, 38enne chirurgo attualmente al lavoro nei pressi di Almeria. Paolo vi giunge dopo la laurea in medicina a Roma, seguita da una specializzazione che lo porta una prima volta in Spagna. Al termine della specializzazione Paolo vince il concorso per un dottorato in Francia, dove si forma in chirurgia laparoscopica prima di trasferirsi in Lussemburgo con un contratto da chirurgo. Al termine della doppia esperienza all'estero tenta il rientro a Roma, ma si rende conto di essere di troppo, così torna in Spagna, dove pur trentenne ottiene spazio e responsabilità. Ma la sua storia lascia fortunatamente aperta la porta alla speranza. Da quest'anno Paolo è formatore dell'equipe di chirurghi dell'ospedale di Tivoli. In un certo senso questo è il suo personale controesodo. Ci raggiunge ora in linea Alessandro Napoli, radiologo e ricercatore all'Università La Sapienza di Roma. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Alessandro, la tua storia per una volta ci offre spunti per guardare all'Italia con un po' di ottimismo. Prima però ti chiedo un commento alla storia di Paolo, con cui hai condiviso anche la laurea a Roma. Quanti bravi giovani chirurghi l'Italia sta perdendo o ha perso perché scomodi? Tanti. Paolo è solo un esempio. E la tua storia in breve: laurea in medicina, specializzazione in radiologia, dottorato fino a ricercatore a tempo determinato. Ci racconti come nel tuo caso tu sia riuscito a trovare un ambiente meritocratico in Italia che ti ha permesso di crescere e quanto queste esperienze siano sistemiche o purtroppo non siano piuttosto oasi felici. Sicuramente la mia esperienza è un'oasi felice. Il merito di questa oasi è da attribuirsi al professore, il primario, il professor Passariello, primario della radiologia della Sapienza, che è riuscito attraverso la sua grandissima cultura anche a trasferire un grandissimo entusiasmo. Lui negli anni ha costruito un reparto di eccellenza non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale, e questo è stato un entusiasmo che io ho recepito e al quale ho inteso continuare. Questo dimostra che se si pongono le condizioni anche in Italia si può lavorare bene. Assolutamente sì. Ci spieghi di cosa ti occupi ora esattamente, anche perché parliamo di tecniche all'avanguardia. Al momento sono responsabile di una sezione dove facciamo delle terapie non invasive con la guida della risonanza magnetica ed utilizzando come fonte di terapia gli ultrasuoni focalizzati. Tu ti definisci legato dall'entusiasmo al reparto in cui lavori, anche perché il tuo professore ha costruito, lo dicevi, un team d'avanguardia. Stupisce però, leggendo la storia che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it, il percorso a ostacoli che hai dovuto affrontare per specializzarti: un dottorato mal pagato, prospettive di carriera incerte, il lavoro gratuito in clinica. Allora, perché questo paese sembra fare di tutto per scoraggiare i più determinati, i più volenterosi, secondo te? Realmente non lo so, ma quello che te appena dicevi è esattamente così, è un percorso ostacoli. Se non fosse stato per i miei genitori che riuscivano a sostenermi nella carriera, tra virgolette, di scienziato, sarebbe stato davvero difficile con le risorse a disposizione dell'università poter andare avanti nella vita. Quindi credo che la colpa sia nella paura di far emergere i giovani. Noi tutti cerchiamo di ritagliarci un piccolo spazio e chi può, come nel mio caso ad esempio, va avanti. Paolo, ma all'estero è così: un medico bravo e competente che vuole dare il proprio contributo al miglioramento della vita delle persone deve sottoporsi a queste prove? Ma per lo meno la mia esperienza all'estero è diversa, nel senso che comunque l'assunzione è fatta su colloquio, come ho detto, quindi ovviamente si cerca il merito. Si cerca il merito anche perché c'è più concorrenza tra pubblico e privato, per cui se si vogliono l'uno o l'altro accaparrare il meglio devono comunque offrire qualcosa. E in più all'estero si spende molto molto di più per la ricerca. E questo fa la differenza. Alessandro, anche per te un commento a recenti dichiarazioni del ministro Balduzzi, il quale ha ammesso che nel mondo della ricerca l'Italia non offre le stesse opportunità rispetto all'estero, al punto che esistono, dice, solo contratti a termine, non si dà ai singoli ricercatori la possibilità di essere artefici del proprio successo e si finisce così con l'incentivare una forte spinta migratoria verso paesi più dinamici, come sappiamo. A noi viene da commentare: magari chi occupa certe posizioni dovrebbe moltiplicare gli sforzi per cambiare le cose. Tu invece cosa intendi fare? Resterai? Andrai via? Io intendo restare. Il percorso che ho fatto fino ad oggi mi ha portato ad una posizione, quella di ricercatore, che secondo le nuove leggi è ricercatore a tempo determinato, però un ruolo in cui riesco ad avere rapporto con i giovani in quanto mi occupo di didattica, di ricerca, di attività clinica attraverso questa nuova modalità di cui parlavamo. In questo momento non mi sento assolutamente di andare via, anche se il futuro è assolutamente incerto. Di nuovo, per me esiste soltanto un tempo determinato al momento. E noi ti facciamo in bocca al lupo, perché voi, gente come te, persone come te, professionisti come te, siete la speranza di questo paese. Grazie Alessandro. Paolo, domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Io dico sempre una cosa, che se il nostro lavoro coincide con la nostra passione siamo fortunati, e quindi di seguire le proprie passioni, non fermarsi ai confini nazionali, perché comunque l'estero, anche non solo nella fuga, diciamo, ti offre tantissime opportunità. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un Energy Efficiency Manager ad Habitat for Humanity International, sede di Bratislava, scadenza per i CV 31 ottobre, info a habitateurope.org. Senior Consultants Manager SAP Implementation, ricerca Ernst & Young a Bruxelles, scadenza per i CV 1 novembre, info a ey.com. L'Università di Zurigo cerca docenti in economia dello sviluppo e dei mercati emergenti, scadenza per i CV 30 novembre, info a jobs.uzh.ch. Vi ricordiamo infine di consultare il gruppo LinkedIn La Fuga dei Talenti per offerte di lavoro in Italia. Al momento è aperta la posizione di International Brand Manager a Parma. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi ripristiniamo il nostro forum radiofonico con le vostre lettere e messaggi. Per cominciare vi facciamo ascoltare le lettere che ci hanno inviato Paola e Alessandro, un botta e risposta su un tema per noi cruciale: andare via o restare in Italia. Mi chiamo Paola, ho 25 anni. Mi sono laureata in matematica l'anno scorso. Al momento vivo ad Helsinki, in Finlandia. Mi ritengo estremamente fortunata di aver lasciato appena in tempo la barca che stava affondando e di aver ottenuto una così prestigiosa opportunità. Qualunque universitario conosce il triste ambiente accademico, impersonale e crudele nei confronti dei giovani. Pensare poi di proseguire gli studi in un dottorato con il sogno di fare ricerca è pura illusione. Si concretizza nel dover accettare terribili compromessi e condizioni di lavoro inumane. Ho detto lavoro? Devo essermi sbagliata, perché la metà dei dottorandi non percepisce alcun stipendio. L'altra metà vive a casa dei genitori, perché neppure con estremi sacrifici potrebbe pensare di vivere con la miseria che l'università elargisce. Per fortuna ho preso la decisione di completare il mio ultimo anno in Erasmus ad Helsinki. È stata un'esperienza quasi mistica. L'università era popolata da professori che davano grande valore al lavoro degli studenti e con cui un confronto era possibile. Non solo. Vedendo il mio profondo impegno nello studio, il direttore del più grande gruppo di ricerca dell'università mi ha offerto un posto di dottorato sul palmo della mano, cercando addirittura di convincermi ad accettare. Dico, convincermi ad accettare un lavoro in un gruppo prestigiosissimo con un salario ottimo. Ciò che ancora rimane oscuro in Italia, in generale, è che i giovani sono il futuro e vanno valorizzati. Nessuno investe sui giovani e l'intera struttura sociale è marcia. Mi chiamo Alessandro, ho 27 anni. Scrivo questo feedback in risposta alla lettera di Paola. Ogni volta che sento parlare di italiani, giovani in particolare, che vanno all'estero, mi duole il cuore e provo un senso di rabbia. Sembra quasi che il paese dei balocchi sia oltre le Alpi e che qui ci siano solo indifferenze e raccomandazioni. Io dico, restiamo in Italia per cambiare le cose. Impariamo a lavorare con professionalità, a proporre nuove idee e soprattutto a fare squadra. La vera malattia dell'Italia è la divisione. Bisogna anche iniziare a smontare i miti del posto fisso dopo il pezzo di carta. Io credo all'Italia e a chi ci vive. Viviamo in un periodo storico in cui le idee e la voglia di fare contano ancora più di prima. Spero che chi va all'estero un giorno torni per proporre e portare le proprie esperienze, mentre chi rimane, spero, non si fermi solo a lamentarsi per quello che non funziona. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre è: siamo sempre più un'economia che perde lavoratori qualificati e attrae dall'estero lavoratori con qualifiche basse, esattamente il contrario di quanto stanno facendo i nostri maggiori concorrenti, così denuncia il CNEL. Secondo voi l'Italia ha già perso la guerra dei talenti del terzo millennio? Soprattutto intravedete vie di uscita per invertire questo trend? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.